problemi ci sono, abbiamo avuto qualche segnalazione e confrontandoci anche con altre realtà come Plus, che sappiamo essere presente sul territorio in ambito di diagnostica, abbiamo riscontrato delle difficoltà soprattutto da parte della popolazione bolognese ad accedere ai servizi di testing gratuiti sul territorio, in particolare al centro MTS. Questo sì, c'è stato un brusco calo delle diagnosi, questo non perché le persone non si aggreghino e non abbiano un'attività sessuale, ma perché è diminuita la possibilità di effettuare test, e questo è successo anche a Sant'Orsola di Bologna. È un dato oggettivo e non assolutamente polemico. Gli ingressi attualmente sono solo 20 a livello giornaliero, vengono effettuati soltanto 20 test al giorno. Ecco, prima quanti erano? Si sa, c'è una stima? Ma prima la stima era molto più elevata, penso si raggiungessero almeno i 60 al giorno. Gli orari erano sempre molto stringenti, quindi si doveva andare a effettuare il test gratuito e ad accesso libero la mattina molto presto, diciamo all'alba, verso le 7, e la possibilità di accedere c'era fino alle più o meno le 10:30, alle 11 del mattino. Adesso le cose sono cambiate, sia per questioni di sicurezza, nel senso che non si possono avere più di 20 persone in sala d'attesa, 10 ci possono stare, le altre 10 devono aspettare fuori, e non è garantito che tutte riescano comunque ad effettuare il test, perché l'orario comunque per persone che lavorano non è l'ideale, non tutte possono prendere un permesso, e diciamo che 20 persone al giorno sono davvero poche se pensiamo al numero di persone bolognesi che magari hanno un'attività sessuale e anche svolgono pratiche a rischio, come può valere per tutte, insomma. In particolare, appunto, comunque l'accesso vale sulla presenza, non ci si può prenotare? No, non ci si può prenotare, è un accesso libero, ci si deve presentare e prendere il numeretto all'ingresso, quindi il primo che arriva è un po' come al supermercato, la prima persona che riesce a prendere il numero è la prima ad essere servita, mettiamola così, e questo può creare più difficoltà nell'accesso, nel senso che arrivare magari alle 8 può precludere l'accesso perché magari tutti i 20 numeri sono già stati presi. È un problema, negli ultimi 2 anni si è rivelato un problema, quindi anche la diminuzione magari delle diagnosi di HIV c'è stata, non tanto perché l'HIV non ci sia, anzi, ma perché la possibilità di diagnosi è nettamente calata, è quasi dimezzata secondo i dati, quindi è un problema. Qual è l'impatto, quali conseguenze può avere questa cosa? L'impatto è quello che diminuiscano le diagnosi, ma il punto è che è un dato poco realistico, cioè una diminuzione delle diagnosi non coincide con una diminuzione della presenza di persone HIV positive, tutt'altro, implica magari che sono difficilmente raggiungibili le persone che vogliono effettuare un test o hanno bisogno di effettuare un test. È un dato abbastanza preoccupante perché non rispecchia la realtà attuale. È diminuita semplicemente la possibilità di testarsi e di occuparsi dell'infezione. Siamo fortunati a Bologna, nel senso che esiste un altro servizio. Ci sono le associazioni di volontariato, abbiamo Plus BLQ Checkpoint in via San Carlo, che su appuntamento effettua test per HIV e non solo. Però gravare troppo anche su altre realtà si capisce bene che può essere un problema. Parlando di sanità pubblica, vanno prese delle misure, e non a caso in questi giorni si sta parlando anche di riforma della legge 135/90 in ambito di HIV, e andrebbe riformata, andrebbe fatto un ragionamento anche sul piano nazionale di prevenzione. Il Covid c'è, esiste, ma questo purtroppo ha portato al fatto che abbia relegato in un sommerso anche altre infezioni. Esiste l'HIV, altri virus esistono, questa è la questione. Il rischio è poi che, come dire, finito tutto quanto, ci troviamo magari un aumento di persone che hanno contratto appunto malattie di questo tipo, proprio perché la prevenzione non ha funzionato. Sì, non ha funzionato perché è stata oscurata, cioè purtroppo ha lasciato il posto a una prevenzione che indubbiamente merita la massima attenzione, cioè siamo in piena pandemia, in piena emergenza Covid, purtroppo altri servizi sono venuti meno, anche nei reparti di oncologia si sa, purtroppo gli interventi sono diminuiti in ogni ambito. Il Covid si è preso un un po' tutto, anche la prevenzione. Per questo andrebbe fatto un ragionamento in maniera molto urgente, sia tra associazioni, sia tra anche tramite la sanità pubblica, andrebbe rifatto. Speriamo che le cose cambino, io sono anche abbastanza ottimista, soprattutto per quanto riguarda la città di Bologna, che mostra sempre una grande prontezza e una grande sensibilità anche sul tema HIV.